perché si arriva alla necessità di questa norma? Per il fatto che la custodia cautelare dovrebbe, essere accompagnata sì da tutti quegli elementi di diritto ai quali lei faceva riferimento per il garantismo istituzionale che ci deve connotare, ma in un certo senso si è arrivati a questo perché sta custodia cautelare non veniva data, diciamocelo francamente. Io sono stata pubblico ministero per 18 anni ai minorenni e alla procura presso il tribunale per i minorenni e ho visto di tutto e di più. Ora, la dialettica processuale in realtà è molto diversa da come viene rappresentata dai mass media. La situazione secondo me è meno grave di quella che appare dai giornali che vengono, come dire, accendono i riflettori su casi assolutamente eclatanti e nei quali entra anche in gioco la politica. Ma si è arrivati a questo perché si è purtroppo dovuto assistere impotenti a di tutto e di più, soggetti che hanno ammazzato, stuprato e quant'altro e che erano liberi il giorno dopo. Devo dire però una cosa, che la Corte Costituzionale in realtà non dice che la misura della custodia cautelare in carcere non si può applicare, viene rimesso, così come per tantissimi altri gravissimi reati, all'apprezzamento del giudice l'applicarla o non applicarla. Questo è un elemento di rassicurazione che va dato.